Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, Maridia ai microfoni, vi saluta, saluta veramente tutti quanti coloro i quali continuano a seguire Brussellando e vi ringraziamo, anche se siamo ancora un po' in ritardo con i podcast. Saluto dall'altro lato del vetro Daniele e saluto veramente tutti quanti voi. Prima di cominciare questa puntata, volevo ricordarvi che il 30 maggio, il prossimo 30 maggio, Cristiano De André sarà in concerto qui a Bruxelles. Quindi vi suggerisco di consultare il sito di betlive.com per avere maggiori informazioni. Ovviamente vi auguriamo anche che possiate partecipare e partecipare numerosi. E colgo l'occasione per salutare sia gli amici di BetLive che la Piola Libri. Vi ricordo invece che parleremo di Prima Guerra Mondiale, anzi parleremo della Guerra Mondiale. Mi avevano insomma già più volte contattato, quindi sono contenta perché il 1 giugno modererò un evento che parlerà proprio di una storia italiana, una storia salernitana, quindi in questo caso campana, dedicata per l'appunto alla guerra, non alla prima, ma alla seconda, ad una parentesi di storia poco nota, e la locandina sarà disponibile anche sul sito di Brussellando tra qualche giorno. Quindi era un tema di cui volevo parlare. Tra l'altro, la puntata del 2 giugno, poiché il titolo del libro è molto suggestivo, si chiama Una finestra sull'Europa, sarà per l'appunto dedicata a questa tematica. Ma veniamo invece alla puntata di questa sera. Tommaso Pierragnolo è il protagonista di questa puntata, è un poeta veramente sensibile. Ringrazio veramente Tommaso per averci contattato, perché scoprire la sua scrittura delicata, veramente sensibile e poi allo stesso tempo così ricca di significato è stato un bel momento di riflessione, già che, come avrete potuto notare, parliamo quando veramente riusciamo di poesia. Quindi Tommaso, pensate, ha vinto tanti premi. Io so che lui è molto timido e non ne vuole parlare, invece io credo che sia importante perché quasi un po' tutte le sue pubblicazioni hanno ricevuto un premio. Questo vuol dire sicuramente che la sua scrittura merita. Tra l'altro Tommaso è non solo autore ma anche traduttore, sapete come sono care a noi di Brussellando queste tematiche. Pensate, lui è stato anche il primo a tradurre Unice Odio, un'autrice probabilmente costarricense, perché Tommaso vive da 20 anni tra l'Italia e la Costa Rica, e questa sera parleremo del suo poema Nuovo Mondo, edito dalla casa editrice Passigli di Firenze. Pensate, finalista al premio Palmi, Metauro, Minturne, rosa finale del premio Marazza e vincitore del Saturo d'Argento, città di Leporano. Tommaso ha anche scritto Lettere lungo la strada nel 2002, ugualmente vincitore di un premio, L'Oceano e altri giorni nel 2005, ugualmente, pensate, vincitore nonché finalista in varie competizioni. Mi fermo qui perché, anzi no, vi voglio ricordare che è anche tradotto in italiano Laureano Alban con Gli infimi crepuscoli, Via del vento 2010, Poesie imperdonabili, Passigli 2011. Quindi Tommaso, come avrete potuto notare, è veramente un autore straordinario. Abbiamo quindi sentito, e questa sera lui ci leggerà varie poesie estratte da Nuovo Mondo e L'Oceano e altri giorni. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente in Italia, quindi sentiamo che cosa ci racconta Tommaso al telefono. Alda Merini, che insomma, non è più con noi, ma che comunque ha fatto scuola in ambito di poesia, in uno dei suoi aforismi diceva: "Non cercate di prendere i poeti, perché vi scapperanno dalle dita." Quindi, chi è per te il poeta? Una domanda bellissima della produzione della grandissima Ada Melini. Beh, ho sempre creduto che il ruolo di ogni singolo uomo e dello scrittore in particolare sia principalmente quello di essere cosciente e di vivere come essere cosciente, quindi una coscienza universale che in qualche modo ci permetta di uscire dai localismi e dai preconcetti per diventare maturi abitanti di questo pianeta stupefacente di cui noi siamo solo i custodi. Questo per me è il ruolo dell'uomo e possibilmente il ruolo dello scrittore e del poeta in particolare. Senti, allora, se secondo te, in questi tempi un po' avari, in questi tempi in cui soprattutto la poesia è sempre un po' considerata la Cenerentola, no? Nell'ambito della scrittura, secondo te, secondo quello che tu hai detto, è possibile sviluppare una cultura poetica? Cioè, possiamo ancora farcela nonostante tutto? Sì, sono assolutamente convinto di sì, anche perché viviamo in un mondo che è mutato in modo epocale in questi ultimi anni. C'è un appiattimento culturale e psicologico, in qualche modo a mio parere creato anche ad arte, dall'industria, che ci propone alcune cose e ci educa con senso profittevole. Poi l'uso incontrollato della tecnologia, che a volte risulta un'arma ulteriore per lo sfruttamento e l'isolamento dei più deboli, ma più in generale anche il vuoto prolungato di idee e di progetti, che ha creato praticamente una società molto asettica ed egoista, a mio parere, che si muove esclusivamente verso il tornaconto immediato e della personale affermazione a tutti i costi. Quindi, insomma, io penso veramente che la poesia possa condurci verso orizzonti nuovi e orizzonti inediti, come anche suggerisco nel libro Nuovo Mondo, nel quale c'è una frase a cui sono molto affezionato, che dice: verso il mistero azzurro di un nuovo cuore che saluta il mondo. Ecco, questa è l'idea che io ho della poesia e del ruolo che dovrebbe avere e potrebbe avere la poesia. Tommaso, da 20 anni vivi tra l'Italia e la Costa Rica, quindi lo hai appena annunciato, recentemente ti è stato pubblicato il poema Nuovo Mondo, però mi sembra di capire che la Costa Rica sia effettivamente un po' una tua seconda patria, perché anche la raccolta, l'oceano, altri giorni ricorda un po' di quel paese. Come nasce questa tua passione per la Costa Rica? Stabilmente fino al 2002 in un posto molto isolato. Vivevamo in un villaggio molto sperduto sull'Oceano Pacifico, immerso nella giungla del tropico. Eravamo lontani dalle vie principali di comunicazione e dal mondo cosiddetto civilizzato. Questa esperienza, attraverso delle associazioni governative universitarie, ci ha portato a partecipare per molti anni ad un programma di catalogazione della flora e della fauna di una vasta area vergine del Costa Rica. E quindi questa esperienza, che è stata un'esperienza per me importantissima, mi ha profondamente formato ed ha segnato anche indelebilmente la mia scrittura. Allora, vogliamo dare un assaggio ai nostri ascoltatori di una tua poesia che, come sai, mi è piaciuta particolarmente, dal titolo Nicaragua, sul confine. Certo, con molto piacere. Saliva nei tuoi occhi l'estensione di un nome che la terra tratteneva. L'aperto calore delle acque, culminate nella leggerezza della distanza. Fuoco trattenuto dei vulcani che fugava dai fiori la rugiada, l'alba riunita sulla fronte delle madri che si immergevano nel fiume, l'orizzonte come una nuvola strisciata sopra la linea nuda di una goccia, e quella goccia sola era la mia bocca che ti baciava. Amica mia, donna d'acqua o costiera, dove attendere un giorno senza età, fessura nel legno tardivo dove mesi pazienti aumentarono il miele dell'amore a ore ed ore, nella notte impassibile del bosco. Quando torneremo un giorno dove siamo già nati, saprai che il nostro mondo è un rovescio di medaglie, che un tempo più perfetto non esiste e che i ricordi sono pesci negli acquari, un fiore tra i capelli può volare deserti sono millimetri, che il tuo nome appartiene a tutto il mondo e che l'amore resta un dono possibile se una forte giogaia lo sostiene. Saprai quel giorno, forse tutto e forse niente, e come infine ci arrendemmo nell'acqua interminabile di un bacio. Tommaso, guarda, veramente è una poesia bellissima in cui, come ti dicevo anche prima, ci sono vari elementi che mi hanno colpito della tua poetica, perché l'ho trovata densa, concisa però allo stesso tempo e ricca, veramente ricca di immagini. E poi credo che utilizzi le metafore in maniera veramente fine, molto raffinata. Magari vogliamo spiegare brevemente come nasce Nicaragua sul confine? Ci ho ritrovato un po' di D'Annunzio, poi magari mi sbaglio, però ci sono delle atmosfere che ricordano molte delle poesie del nostro poeta Vate, il nostro D'Annunzio. Allora, restando sempre su queste tematiche, vorrei che tu leggessi sempre per i nostri amici all'ascolto Due alberi, sempre estratto da L'oceano ad altri giorni. Ho esteso amore, al fondo della gola ti gridai, la fragranza taciturna e liquida in un fascio di linfa incendiata. L'aroma abbraccato dell'ombra nel folto di un mondo perduto. L'aria che esalava colmando l'eredità inabitata del giorno. Un nuovo castigo o la spersa dolcezza del mattino. Forse la tua lingua di fiamma azzurra senz'altro nome che se stessa. Chiusa nell'arduo abitacolo di un suono millenario. Ma nell'assenza, nella capigliatura della notte, nel solco del silenzio sprofondato, io nacqui nuovamente dai tuoi baci e per la prima volta la mia linea di pietra nuda sorse dal peso delle tue carezze e i fianchi sollevarono il legname e il seme che invase il tuo corpo. Mia melagrana dischiusa, diventai carne quando mi toccasti, mi sporsi guardando i tuoi occhi, viaggiando nelle nette attese della tua inumana presenza. Perché qui venimmo per continuare a vivere, dalla fine all'inizio cominciare, quest'ombra di nitida purezza. Forse noi fummo solo due alberi, disordinati dai colpi del vento, fortificati da solitudini, cresciuti solamente insieme per morire e continuare a vivere ogni giorno. Guarda, anche questa veramente quando l'ho letta mi ha lasciato senza fiato, uno per la ricchezza delle immagini, l'altra proprio per la profondità dei sentimenti che sei riuscito ad esprimere. Quindi tu dicevi che per l'appunto hai vissuto tra Italia e Costa Rica, e come, quando scrivi, quindi, perché dopo aver trascorso tanto tempo in un paese, e questo te lo posso confermare anch'io, che vivo ormai in Belgio da un bel po', si perde un po' a volte la dimensione, diciamo, quella di vicinanza, di prossimità, nonostante poi i due paesi, cioè il Belgio e l'Italia, non siano molto distanti. Ma tu come hai vissuto questi momenti, diciamo, di distacco dall'Italia? Ma diciamo che l'esperienza è stata così grande, è stata così forte, che forse non mi sono nemmeno reso conto del distacco, perché ero completamente calato nella realtà di quel periodo, nella realtà che mi stava capitando. Quindi non ho avuto nessun contrasto al momento in cui li vivevo durante tutto l'anno e per quei 10 o 12 anni. Piuttosto forse la differenza, il contrasto è poi nato una volta tornato più spesso in Italia dopo il 2002, con come si spiegavo prima, una sorta di grande confronto, e di grande nostalgia e di grande confronto per quello che qui trovavo, per quello che sapevo di trovare qui. E abitare per così lungo tempo in un luogo così lontano come Costa Rica di quegli anni, che erano alla fine degli anni Ottanta, e quindi un luogo completamente diverso da ciò che è ora. Conoscere in quel tempo i paesi anche dell'America centrale, come Nicaragua, Panama e altri paesi, la loro natura, gli abitanti che da quel tempo vivevano in un tempo sospeso, non ancora assolutamente intaccato dalla modernità e dallo sviluppo, e quasi calato direi in una realtà ottocentesca da un certo punto di vista. Questo mi ha insegnato comunque a non smettere mai di stupirmi, di ammirare e proteggere la varietà e la bellezza del mondo in cui viviamo. E questo forse è stato uno dei contrasti più grandi che ho provato tornando nel mio paese, vedendo un po' poi come le cose si sono sviluppate nell'arco degli anni, un po' il deterioramento del territorio, che anche qui in Veneto è molto forte, e una serie di trasformazioni che, come dicevo prima, hanno creato un po' l'arricchimento dei valori fondanti dell'etica umana, creando una società abbastanza asettica e egoista. Tommaso, tra l'altro c'è una dimensione molto interessante nel tuo percorso di poeta, perché sei stato pubblicato anche in spagnolo, però hai anche tradotto dallo spagnolo all'italiano, per esempio Eunice Odio, correggimi se sbaglio la pronuncia, Questo è il bosco e altre poesie, pubblicato credo da Via del Vento 2009, con menzione speciale Camaiore per la traduzione, e anche la prima traduzione in italiano di Laureano Alban, Gli infimi crepuscoli, invece pubblicato nel 2010, e Poesie imperdonabili, pubblicato sempre da Passigli, così come la tua raccolta Nuovo Mondo. Magari, sai, siamo sempre in questa dimensione, se vuoi, multiculturale e multilinguistica, dove ci sono almeno due lingue di lavoro. Nel nostro caso, per esempio, a Bruxelles ce ne sono tre, però comunque restiamo in una dimensione multilinguistica. Come cambia Tommaso quando traduce? Che cosa apporta la traduzione? Tommaso è un coautore rispetto ai poeti che è tradotto? Qual è il lavoro che Tommaso ripercorre nella traduzione? Certo, una bellissima domanda. Intanto mi faceva piacere ringraziarti di aver ricordato queste traduzioni, perché Laureano Alban è uno dei poeti costaricani viventi, ma non solo un autore costaricano, un autore internazionale, considerato uno dei più importanti sudamericana e vive tuttora in Costa Rica, però insomma è stato un esponente importante anche del proprio governo, perché è stato, oltre a essere membro permanente dell'Accademia di Lingua Spagnola, è stato anche diplomatico, ambasciatore di Madrid, delle Unite a New York, ha lavorato per il tedesco a Parigi, sì, insomma un personaggio. Oltre che essere un bellissimo poeta, a mio parere è anche un personaggio con una grande cultura. Per quanto riguarda un dice odio, mi fa piacere anche dire a te, agli ascoltatori, che oltre al libro che citavi prima, Questo Bosco e altre poesie, pubblicato da Via del Vento nel 2009, è uscito 15 giorni fa in libreria, sempre per la casa editrice Passigli, con la quale lavoro e collaboro ormai da alcuni anni, la prima raccolta bilingue di un dice odio, che si chiama Come le rose disordinando l'aria, che ho curato e tradotto insieme a mia moglie Rosa Gallitelli. Ed è un libro, a mio parere, molto bello. Un dice odio invece non è più vivente, è considerata una delle più importanti scrittrici in lingua hispanoamericana, ultimamente riscoperta sia in Nord America che Europa. Io ho avuto il piacere di portarla per la prima volta in Italia, ancora nel 2009, con alcune traduzioni fatte su riviste online, in particolar modo sulla rivista Sagarana, e anche da Urano Albana, facendo un lavoro di traduzione comunque anche di autori non conosciuti e non mai tradotti in Italia fino a quel momento. E poi venendo alla tua domanda, che bello, sì, bellissima domanda, come si cambia traducendo? Beh, io personalmente, parlando lo spagnolo ormai da molti anni, credo che il traduttore, per quanto riguarda il mio modo di tradurre, debba rispettare il più possibile il suono, poi tutte le varie assonanze della lingua traducendo, ma non solo debba rispettare il suono e il significato insieme, e quindi cerco di attenermi il più possibile al testo, ovviamente poi cercando di impreziosirlo e di renderlo più veicolabile alla lingua italiana, anche se le mie lingue sono molto simili. Per cui ecco, questo lavoro credo sia importante, rimanere fedeli alla metrica, alle immagini e cercando di non trasformare il significato a favore di uno o dell'altro. Vogliamo dare un assaggio di Nuovo Mondo agli amici all'ascolto? Sì, possiamo leggere la poesia, intanto, che non ha titolo, perché esatto, non ha titolo. Di recente autunno siano i tuoi baci lungamente attesi per notti di solo memoria stella. Stordisca così il mio grido contro il minerale del cielo e precisati in questa folle rocca senza sentinelle sull'albero, cieche giungano le vivenze ai tuoi piedi. Donna dolce, la tua testa mi spoglia il petto come un indice caduto al fondo. Tommaso, veramente io starei ore ad ascoltarti, così come credo il pubblico di Bruxellando e soprattutto gli amanti della poesia. Però, come sai, ahimè, il tempo in radio è tiranno. Ma prima di salutarci ancora avevo due curiosità. La prima è se stai già lavorando ad altre raccolte oppure ad altre traduzioni. Cercando di completare, di ampliare un nuovo libro che possibilmente sarà pubblicato l'anno prossimo. E quindi ci sarà anche modo di... Non voglio anticipare molto. Ecco, e quindi ci sarà modo di riascoltarti magari il prossimo anno. Allora, vorresti salutare i nostri amici con un pensiero? Congedarti con un saluto, un pensiero, con un'altra poesia? Decidi tu, abbiamo ancora qualche briciolo di secondo a nostra disposizione. Leggere una breve poesia di qualche secondo e vi saluto e vi ringrazio e spero che ci risentiamo presto. Vorresti invece salutare qualcuno oppure esprimere ancora un ringraziamento, insomma? Devo ringraziare voi per avermi ospitato principalmente e poi vi dedico questa piccola poesia che è anche un augurio. Ti ringraziamo, ti ascoltiamo con grande gioia. Che all'inizio della vita tende ogni buona cosa. Il fugato dubbio, il decente perdono che l'ottusa esistenza attanaglia. La madre verde di rugiada estenuata, fresca di nubi e di recenti piogge, che il suo nuziale attende perigliosa, ancora incerta dall'amore e l'odio. È il millesimato asso che non può più esistere nemmeno un'ora passata nel suo eccesso, affinché instilla viva per sempre attratta tra due roghi e della luce esatto alternata. Perché sia possibile invece amarsi e più non sapere se qui comincia davvero un nuovo mondo o se ciechi viviamo la fine del tempo. Bellissima, quindi ricordiamo questa raccolta dal titolo proprio Nuovo Mondo, edito da Passigli. Tommaso, noi ti ringraziamo, ovviamente consigliamo vivamente ai nostri ascoltatori di acquistare la tua raccolta che, credo di aver capito, si può acquistare anche online facilmente. E ci auguriamo quindi di ritrovarti il prossimo anno con la tua prossima fatica poetica. Assolutamente, Tommaso, buona serata ancora e in bocca al lupo. Grazie, Manele, auguri. Cari amiche, cari amici, avrete potuto notare come era dolce la voce di Tommaso, veramente io vi auguro di leggerlo perché ne vale la pena. Io vi saluto, vi auguro veramente una splendida settimana, per quanti partano, per quanti siano in partenza, per quanti siano in vacanza, per quanti ci ascoltano a Bruxelles, ad Anversa, a Genk, e in altre parti del Belgio, nonché dappertutto in Italia, siete collegati con noi. Saluto nuovamente Tommaso, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi lettori, perché credo che siano tanti, e mi raccomando, continuate a seguire la poesia, perché la poesia comunque è un'arte pura, è un'arte in cui con poco riusciamo a dire tanto. Io vi auguro un'ottima settimana, l'ho detto già, però mi fa piacere a ripeterlo, e restate con Georges, con Fiordaliso, con la seconda parte di Bruxellando. Saluto Dani M in regia e tutti voi. A prestissimo, martedì, Radio Alma, Bruxellando.